Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I first held Chelsea in my arms in the hospital in Little Rock. I knew my mission in life was to give her every opportunity to thrive. Hillary Clinton che legge un brano del suo nuovo libro e che siamo in grado di proporvi qui a Radio 24 su America 24 come un'anticipazione esclusiva in Italia. Nel momento in cui ho stretto Chelsea, dice Hillary, tra le mie braccia, nell'ospedale di Little Rock, ho capito che la mia missione era quella di darle tutte le opportunità possibili per il suo successo. Ecco, è un passaggio questo non soltanto intimo, non soltanto un passaggio con cui Hillary da donna parla alle altre donne, parla al cuore degli americani, parla della famiglia, ma è un messaggio per il futuro dei giovani. Perché vi parlo di questo libro, Hard Choices, scelte difficili, che uscirà il 10 giugno in America, pubblicato da Simon & Schuster in 1 milione di copie come prima edizione ed è già venduto, sold out. E ve ne parlo perché, secondo me, è di fatto una dichiarazione anticipata del fatto che davvero correrà per la presidenza degli Stati Uniti nel 2016. Fra un mese forse darà l'annuncio ufficiale, ma questo libro, per il modo in cui è stato costruito e per il messaggio che dà, secondo me è assolutamente rivelatore. I wrote it for Americans and people everywhere who are trying to make sense of this rapidly changing world of ours. Di nuovo Hillary che dice: ho scritto questo libro per gli americani, per tutti coloro che stanno cercando di comprendere il mondo, il nostro, in rapido cambiamento, che vogliono capire come i leader e le nazioni possono collaborare, perché delle volte invece si scontrano e come tutte le loro decisioni si riflettono sulle nostre vite di tutti i giorni. Ho scritto questo libro per tutti coloro che si chiedono se gli Stati Uniti sono ancora in grado di tenere la leadership. Per me la risposta è sì. La retorica del declino americano è diventata ormai un luogo comune, ma io continuo ad avere fiducia nel nostro futuro, che non potrebbe essere più promettente. Tutto ciò che ho fatto e ho visto mi ha convinto del fatto che l'America resta la nazione indispensabile. Beh, ecco, devo dire che questo da solo è un messaggio politico, è un messaggio elettorale fortissimo, proprio nel momento in cui l'America invece è debole. L'America di Obama, di Barack Obama, sta soffrendo sul piano internazionale. Ma il filo conduttore più interessante, un libro questo di straordinaria intelligenza nel modo in cui è stato scritto, nel modo in cui è stato presentato, il filo conduttore è parte da quella prima frase che vi ho fatto ascoltare, Hillary Clinton che racconta di avere Chelsea appena nata stretta nelle sue braccia, per poi parlare del rapporto con sua madre, un rapporto molto forte, una madre novantenne che abitava a Washington e che lei vedeva, una madre novantenne da cui tornava dopo giornate difficili e con cui si sfogava tutte le sue amarezze, le sue ansie, le sue difficoltà di quando era senatore degli Stati Uniti a Washington e poi ministro degli esteri, una madre compagna, un messaggio forte questo, ovviamente per le donne, che proviene da una donna che si proporrà come primo presidente donna nella storia degli Stati Uniti. Perché ve lo dico, e forse mi sbaglio anche, ma perché ve lo dico, mi spingo un po' al di là e ve lo dico con una relativa certezza dal mio punto di vista, per quest'altro passaggio proprio relativo alla madre. Ascoltate. Mom measured her life by how much she was able to help us and serve others. Ecco, qui Hillary dice: mia madre ha sempre misurato la sua vita dalle sue capacità di starci vicino e di aiutare il prossimo. Un messaggio chiave questo per i valori della famiglia. Sappiamo che col marito Bill Hillary ha avuto qualche difficoltà, quindi lei riafferma questi valori essenziali della famiglia e poi aggiunge: so che se fosse ancora tra noi ci spingerebbe a fare la stessa cosa, dunque ad aiutare il prossimo. Mai sedersi sugli allori, non mollare mai, non smettere mai di lavorare per un mondo migliore. That's our unfinished business, dice. Questo è il nostro lavoro, la nostra missione, che non è terminata. Ecco, beh, devo dire che una dichiarazione di intenti, una dichiarazione elettorale più chiara di questa, beh, non potrebbe esserci, e dunque vedremo quando Hillary ci darà la conferma di questa sua decisione di correre per la presidenza degli Stati Uniti. E come possiamo immaginare questa presidenza di una donna che si sieda alla Casa Bianca? Beh, vediamo di trasporre, per esempio, su quello che ha fatto ieri Barack Obama. Cosa ha fatto ieri il presidente americano? Beh, due cose importanti nel corso della sua giornata. La prima. It was Franklin Roosevelt who said, "We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future." Franklin Delano Roosevelt diceva, "Non sempre possiamo costruire il futuro dei nostri giovani, ma possiamo formare i nostri giovani per il nostro futuro." Ieri Obama alla Casa Bianca ha annunciato un nuovo programma STEM, cioè scienze, materie tecniche, matematica, eccetera, del Dipartimento della Pubblica Istruzione, e le scuole si sfideranno fra loro per aggiudicarsi 35 milioni di dollari che serviranno a nuovi programmi di education, appunto nei settori scientifici, e aggiunto un programma AmeriCorps per migliorare la formazione di studenti nel campo della scienza. Questo riguarderà 18.000 studenti a basso reddito in 7 città americane. E poi qual è l'altra notizia di ieri? Beh, Obama ha annunciato il ritiro completo dall'Afghanistan entro il 2016. Proprio l'anno elettorale. Chissà che anche dal suo punto di vista non ci sia, come dire, il tentativo di restituire un favore a Hillary, che dovette ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2008 sconfitta da Obama, ma che poi accettò di servire nella sua amministrazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo darvi una brutta notizia, forse l'avrete già vista, ma è mancato ieri Massimo Vignelli. Massimo aveva oltre 80 anni, era un uomo di straordinaria grandezza intellettuale, un genio del design, si era trasferito a New York alcuni decenni fa ed era diventato un simbolo della nuova frontiera del design internazionale, maestro di molti designer americani, si è spento lasciando naturalmente un vuoto a lui dunque e a questa sua fortuna newyorkese, perché ha davvero fatto cose grandissime, le sue opere sono al MoMA, pensate, molti anni fa ha disegnato la cartina della metropolitana, dunque legatissimo a questa città, e dunque a lui dedico la canzone del giorno, con un interprete che ammirava e con un testo che condivideva al 100%. New York, New York, Frank Sinatra. Right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Little town blue. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.